Tempo di sport. Che è quello dell'Atalanta. Due dei tre convocati da Lippi, dei tre ragazzi convocati da Lippi per questa tornata, cioè Motta, Pazzini, l'altro è genuano Bocchetti, sono per l'appunto cresciuti nel vivaio atalantino. Sentiamoli brevemente nel loro primo giorno di scuola a Coverciano. Ma sì, dai, questi due mesi hanno un po' cambiato la mia vita, la mia carriera, perché sono arrivato alla Sampdoria, riesco a far gol, poi la cosa sta andando bene, è arrivata questa convocazione, quindi di meglio non potrei chiedere. Devo dire grazie alla società S Roma perché ha creduto in me, ai compagni e al mister che mi stanno dando veramente grande fiducia. E questi, dopo queste voci, io direi di passare direttamente la parola a chi questi ragazzi li ha cresciuti, magari li ha anche scoperti, adesso vedremo. E quindi buon pomeriggio a Mino Favini. Buon pomeriggio a tutti voi, Garanzini. Mino Favini è lo storico responsabile del settore giovanile dell'Atalanta. Dunque, lei, se non sbaglio, è l'Atalanta dal 90, qualcosa del genere? Sì, dal 90-91, sono 19 anni ormai, anni dopo 20 anni passati a Como. Senta, dopo 20 a Como, poi parleremo anche dei 20 di Como. Senta, allora, io dico Motta, Pazzini, Montolivo, sono tre, sì. tre ragazzi in nazionale attualmente cresciuti da voi. Ci aiuti lei ad andare avanti con, non dico un elenco completo, ma insomma, ma con qualche nome che ci rinfreschi un po' la memoria di chi è uscito da lì in questi anni? Penso che siano tanti, forse ne citerò alcuni, ma dimenticherò parecchi altri. Senza contare quelli che sono arrivati poi da Como. Fra parentesi, in nazionale mi sta dicendo il direttore mio in questo momento che sta ascoltando la radio e che la sta controllando esatto. No, fra parentesi, con quei tre ragazzi, Motta, Pazzini e Montolivo, c'è anche Zambrotta, che ho avuto il piacere di avere bambino naturalmente a Como. A Como. Comunque sono talmente tanti, dicevo, che io provo a citarvene qualcuno. Tra gli ultimi magari, Padoin, Defendi, Capelli, Lazzaro, Rossini, P.A., due fratelli P.A., P.A. Ignacio e P.A. Joelson. Poi Donati, Rolando Bianchi, il centravanti del Torino, è vero. Pellizzoli, Pagano, no, i gemelli Zenoni, Pinardi, Giampaolo Bellini naturalmente, che è il capitano attualmente dell'Atalanta, quindi e così tanti altri, così come tanti sono stati quelli che sono nati e cresciuti a Como. Mi fa venire in mente la Bocconi, uscire laureati dalla Bocconi. Un complimento importante. Eh no, ma è vero, uscire laureati dalla Bocconi significa avere buone probabilità di inserimento nel mercato del lavoro. Mi sembra che uscire dall'Atalanta significa avere eccellenti possibilità di sistemarsi nel mercato del calcio, cioè di trovare una collocazione nobile. Stiamo parlando di tutta gente che ha fatto la Serie A, poi ce ne sono molti di... Sì, no, moltissimi in Serie B naturalmente, ma non torno molto indietro. Se no dovrei pensare a Morfeo, a Tacchinardi, a Locatelli, certo, a Pavana, Viali, e quindi tanti ragazzi che hanno calcato poi i campi in Serie A. Senta, visto che stiamo facendo un po' di campionario, facciamo sto famoso passo indietro. Lei è stato i 20 anni precedenti li ha passati a Como, sempre, a Como, esatto, sempre come talent scout. Ci ricordi, sì, ci rinfreschi la memoria in questo caso un po' meno recente? Devo andare un po' troppo indietro, forse. Qualche bel nome di allora. Però vi ricordo Fontolan, Silvano, è lo stopper, sì, Gardini, sì, Matteoli, Viercovud, Nicoletti, Galia, Fusin, Vernizzi, Butti, Borgonovo, Stefano, col quale ho ancora contatti in questo momento non facile per lui, certo, no? E quindi per arrivare poi agli ultimi, Zambrotta, Vignaroli, De Ascentis, che è tornato, che ho rivisto qui oramai maturo, uomo di 33 anni. L'ha ritrovato a Bergamo. L'ho ritrovato a Bergamo dopo averlo avuto a 14, a 15, a 16, a 17 anni. Quindi, senta, a proposito di Borgonovo, faccio una brevissima parentesi, poi ne parleremo più diffusamente la settimana prossima, perché il prossimo venerdì 3 aprile ci sarà a Brescia una partita benefica tra le vecchie glorie del Brescia e del Milan, capitanate da Baggio, se parliamo delle vecchie che Gloria e Brescia e capitanate non si sa ancora se esattamente da Gullit piuttosto che da Van Basten o qualcosa del genere. Comunque le vecchie glorie del Milan, una partita a incasso benefico proprio destinata alla lotta contro la SLA, dedicata a Stefano Borgonovo, e sarà l'occasione, mi auguro sin da ora, per tornare a rivedere in questo caso lo stadio dei vostri rivali storici del Brescia, ma insomma comunque di tornare a rivedere uno stadio pieno come si deve. Ne riparleremo con calma la settimana prossima. Favini, lo auguro, sì. Una curiosità, lei viene dal calcio giocato? Sì, io ho giocato non a grandissimi livelli, ma anche nell'Atalanta 2 anni in Serie A, 7 anni nel Brescia, dopo essere cresciuto a Como, dove ho giocato in Serie B per 3 anni. Quindi ho fatto una carriera medio-bassa, diciamo, però sempre in Serie B e in Serie A. Però sempre una carriera. Qual è stato a Como e qual è adesso il suo ruolo esatto? Cioè, lei non allena questi ragazzi, lei li seleziona? No, io ho allenato fino a qualche anno fa, sì, naturalmente, ma già dai tempi del Como divenni quasi subito, ero ancora molto giovane allora, responsabili del settore giovanile. Sì. Chiaramente sono stato allenatore, ho guidato la primavera, poi il tempo dell'ufficio mi rubava troppo delle ore da dedicare ai ragazzi, quindi ho preferito dedicarmi interamente alla guida del settore giovanile, sia a Como e naturalmente a Bergamo. Poi però fino a qualche anno fa, ora ho 73 anni, fino a qualche anno fa andavo sul campo, insomma. Sì. Lei, a parte che qua nel frattempo gli ascoltatori cominciano a reagire, no, a questi stimoli, per cui Lori da Milano mi scrive: non dimenticatevi di Donè, di Notari Stefano. Vede, certo. Ce n'è, ma insomma non è che si può fare l'enciclopedia britannica. Dicevo, lei si sente adesso magari in particolare più tecnico o più rabdomante, nel senso di quello che ha la bacchetta e che sente dove c'è qualcosa che si muove sul terreno di interessante? Penso di sentirmi chiaramente più tecnico. Sì. Nella scoperta e nella selezione dei giovani calciatori io non posso dimenticare delle persone che hanno collaborato con me sia a Como che a Bergamo. A Como, per esempio, Rustignoli, Massola, Tosetti, mentre invece qui a Bergamo soprattutto il maestro Bonifacio, che era il primo selezionatore dei bambini proprio, e molti di questi, Montolivo compreso, no? Motta compreso, sono stati scelti a 10-11 anni, quindi chiaramente poi io ho seguito tutta la loro crescita, ma c'è qualcuno che ha collaborato con me che forse ha anche più meriti del sottoscritto. Io leggevo che tra le sue grandi soddisfazioni c'è quella particolare che si accende quando questi ragazzi, oltre a diventare giocatori, poi lasciamo stare se campioni o meno, ma oltre a diventare giocatori professionisti, riescono ad andare avanti e a completare anche gli studi. Oh, finalmente. Ed è vero, e porto sempre un esempio abbastanza clamoroso, che è recente. Montolivo e Pazzini, che proprio in questi giorni fanno parte della nazionale, ma anche Motta, l'hanno a soli 18 anni, quando esordivano come professionisti nel calcio che conta, sì, chiaramente venivano chiamati per la nazionale Under 21 con 2 anni di anticipo, divennero campioni d'Europa con l'Under 21 e nello stesso tempo, in quei frenetici mesi che vanno da marzo, aprile, maggio e giugno, divennero anche uno ragioniere e l'altro geometra. Quindi è una cosa importante che ripeto spesso ai ragazzi di oggi e che molto spesso però loro non accettano e non ascoltano, perché è diventato molto più difficile seguire e guidare questi ragazzi distratti da tante altre situazioni. Vede, lei ha già preceduto la domanda successiva, e cioè 40 anni di esperienza, 20 a Como, 20 a Bergamo, in realtà diciamo pure grosso modo simili, no? Poi perlomeno sì, meno simili. Ecco, inquadrando il paese così a grandi linee. Come è cambiato in questi, e se si è complicato, lei ci ha già detto di sì, il rapporto con questi ragazzi, il modo di aiutarli a crescere in 40 anni? Allora, è cambiato, sì, notevolmente, così come cambia tutto quello che ci gira attorno, il mondo in generale, naturalmente. ed è cambiato per dei fattori nuovi che sono entrati nel mondo del calcio. Lei provi a pensare solamente al mondo dei procuratori. Quando io, un bambino di 13 anni che ha avuto in casa già 4 procuratori, cosa penserà la famiglia di questo bambino e questo bambino stesso? Certo. È naturale che diventa più difficile gestire la crescita dei ragazzi. Prima ti ascoltavano a bocca aperta e immagazzinavano più nozioni possibile, credendo nelle persone, non solo nel sottoscritto, negli allenatori che li guidavano, perché io penso di essere stato fortunato anche di aver avuto come collaboratori dei tecnici e degli allenatori. Fra questi non è inutile nascondere che sono passati vari Prandelli, Vavassori, Gustinetti e certo, tanti altri. Certo. Lo stesso Pezzotti, che è il secondo di Lippi nella nazionale, certo, in questo momento, è come fosse mio fratello minore. È stato per diversi anni l'allenatore della mia primavera a Como. Quindi è chiaro che c'è stato un momento di formazione importante per i ragazzi e per i tecnici, solamente che i ragazzi a questo punto, ritorno sul discorso di prima, sono distratti da mille altre situazioni e non ti credono più come magari credevano prima a quel che dicevi loro. Fino a che punto lei deve essere, credo, no? Gestendo un settore giovanile, avendo le responsabilità, io credo che lei debba essere un po' istitutore, un po' padre, un po' fratello maggiore, esatto, un po' complice forse qualche volta. In che percentuale, a grandi linee, proprio nell'arco di questi 40 anni? Allora, io dividerei la situazione. Penso di essere stato tecnico per molti anni, io ero un po' un fanatico dell'addestramento tecnico, cioè del perfezionamento del lavoro sulla tecnica. Dopo però ci si è accorti col passare degli anni che non bastava, occorreva anche completare quello che era l'aspetto fisico-atletico. Una volta il calcio era più trotterellato, oggi è molto, sì, più veloce, quindi più difficile, sì, da seguire. No, però penso nella stessa misura ad aver guardato e seguito con attenzione anche la crescita personale del ragazzo, perché insomma è una responsabilità sapere che se uno diventa buon calciatore e buon professionista ha risolto i problemi della sua vita, ma se non lo diventa cosa succede? Io mi sento anche un po' responsabile di queste situazioni da questo punto di vista. Ruggeri, famiglia Ruggeri, da padre, sì, da padre a figlio, no? Il dramma del padre che dura purtroppo tuttora, certo, però non ha impedito all'Atalante, io questo l'ho trovato molto bello, ho trovato una lezione vera per lo sport italiano in generale, che il dramma di questo genitore non abbia impedito al figlio di seguirne le orme, e mi pare anche alla società di continuare su un solco già tracciato, per esempio questo, impersonato da lei. Esatto, io ho avuto Alessandro, il figlio, anche come giovane calciatore, ah, sì, no? E quindi si immagini un po', se non l'ho visto crescere, penso che sia cresciuto anche bene, attualmente ha sulle spalle una grossa responsabilità, ma è ben coadiuvato, aiutato e crede anche lui naturalmente nel settore giovanile, così come credeva il padre. E i risultati di questi anni lo hanno testimoniato. Mi avrebbe fatto immenso piacere se Ivan Ruggeri in questo momento potesse godersi la convocazione dei tre ragazzi Motta, Pazzini e Montolivo nella nazionale maggiore, diciamo. Senta, a costo di farla arrossire, prima di un breve intervallo per il traffico e poi ci ritroviamo, perché ho ancora qualche domanda per lei, sì, le leggo un paio di messaggi. Giacomo da Trieste scrive: Favini, uomo vero, con grandi valori umani, prima che tecnici, ormai sconosciuti nel mondo del calcio. Un esempio per tutti, sembra risentire la serena umiltà del vecchio Paron Rocco. scrive Mirko Capacci invece da Arezzo: io non conosco questo signore, ma lo scrive con la maiuscola, dell'Atalanta, ma dato che lavoro nel calcio con i bambini, lo apprezzo tanto e gli auguro lunga vita fisica e filosofica, perché Giovanni mi si raccomanda, dice: non dimenticate Donadoni come prodotto dell'Atalanta. Beh, ci mancherebbe altro, è un po' difficile dimenticare un campione vero di quella caratura. Fioccano domande anche da parte degli ascoltatori per Favini. Per esempio Amy, una signora bergamasca, domanda a lei: cosa pensa dei genitori che seguono i figli come fossero tutti dei nuovi Ronaldo? È incredibile quello che si vede sulle tribune degli oratori o dei campetti. È vero, È vero, ne parlavamo prima a tavola, con molti di questi genitori hanno perso il senso della misura e quello che è realmente il momento della crescita dei loro figlioli, litigano tra di loro, bisticciano, se la prendono col tecnico, con l'allenatore e non pensano che ci sono dei problemi più importanti da risolvere, magari all'interno della famiglia, i problemi della scuola, come dicevamo prima. Ma sa che l'anno scorso io ho impedito ad un nostro giovane calciatore di partecipare a uno stage della nazionale perché aveva bigiato per 15 giorni di fila la scuola e mi sono sentito dire dalla mamma: ma perché Favini non si interessa dei problemi del campo e mette il becco in quelli che sono i problemi della famiglia? Ma io avevo la responsabilità della crescita e della guida di questo ragazzo e giustamente gli ho annullato una convocazione con la nazionale giovanile e penso di aver fatto il mio dovere, ma qualcuno poi non lo capisce fino in fondo e vabbè, io prendere anche quello. Educazione a questo ragazzo, no? Evidentemente. Sì. Certo, che evidentemente era un'eccellenza. Sto vedendo sullo sfondo, ma con l'audio muto non c'entra nulla, ma giusto per l'attualità, la conferenza stampa in cui Cairo sta presentando Camolese. Ho davanti agli occhi questa sequenza, ripeto, schermo muto, sono almeno 6-7 minuti che Cairo sta parlando, Camolese deve ancora aprire bocca, ma questo è regolare perché se c'è un microfono nei paraggi credo che siamo assolutamente nella norma. Favini, Del Neri fa un certo tipo di calcio. Allora io ricordo vecchie questioni di settore giovanile, una storica che è questa, quando Bagnoli allenava il Cesena e Sacchi allenava la Primavera del Cesena, c'erano un po' di problemi di compatibilità, diciamo, no? tra l'uno e l'altro, non tanto per a parte i caratteri. Bagnoli è stato anche lui un mio allenatore al Como Primavera. Vede. So, morale, l'uno ovviamente praticava un certo genere di calcio, l'altro ne praticava un altro e c'erano delle pretese reciproche, no? Cioè vorrei che i ragazzi giocassero così oppure vorrei che, eccetera. Visto che Del Neri, il tipo di calcio di Del Neri non è un calcio granché standardizzato, gli allenatori sono gli allenatori delle giovanili, diciamo quelle più vicine alla prima squadra, che si adeguano per esempio a un modulo, a certe richieste, oppure la cosa è ininfluente? No, non è facile, a volte si cerca di seguire un pochettino, soprattutto con la squadra Primavera o la Berretti o gli allievi, quelli che sono le tracce date da Del Neri, però ci sono cose che vengono prima di quello che riguarda l'aspetto puramente tattico, cioè la formazione di un giovane calciatore ha dei momenti, ha delle progressioni che vanno rispettate, cioè fino a una certa età esiste solo il momento ludico del bambino in crescita, certo. E in un secondo tempo naturalmente si può pensare a quello che è il completamento fisico-atletico e per ultimo l'aspetto tattico, cioè la definizione del ruolo, diciamo, no? E quindi si cerca, ma guardate che non è semplice e facile seguire quelli che sono i criteri di lavoro di Del Neri, perché l'addestramento e l'insegnamento in questa fase di crescita e di completamento non è una cosa da tutti, insomma. Vale ancora la pena di crescere dei ragazzi per poi vederseli strappare nel senso, no, non sto parlando del fatto che l'Atalanta giustamente ha per fortuna un vivaio così e può permettersi, continuare a permettersi la Serie A attraverso le cessioni dei suoi talenti, questo è un percorso naturale che c'è sempre stato, no? Sì. Parlo dei ragazzi strappati magari dall'estero con questi nuovi contratti eccetera. Guardi, la croce. È uno dei problemi di cui accennavamo all'inizio, delle difficoltà che esistono nella crescita dei ragazzi. Io ricordo che il primo giocatore che mi fu scippato, diciamo perché così è stato, fu Dalla Bona. Ce ne fece una malattia perché non mi sembrava vero che un ragazzino che era con noi da 3 anni a soli 17 anni venisse portato via in Inghilterra e che la famiglia si lasciasse lusingare da un contratto magari fatto troppo presto senza aver la dovuta pazienza e la riconoscenza nei confronti di chi l'aveva cresciuto. Però poi dopo se ne sono seguiti tanti altri e quindi, ma non solo l'Atalanta, anche ad altre società. Io da anni Garanzini, sì, predicavo che probabilmente era necessario un incontro tra le maggiori autorità di tutti gli stati europei, le nazioni europee, sì, no? Per far sì che non succedessero più questi furti, no? Con scuse ridicole, uh-huh, di giovani calciatori, che noi non facessimo dispetti agli altri, ma che gli altri non facessero, certo, dispetti a noi. Finalmente, esattamente un 20 giorni fa, ho letto un articolo in cui Platini, in una riunione, ha deciso di convocare tutte le nazioni, tutti i responsabili delle varie nazionalità europee, per far sì che non succedessero più queste cose coi ragazzi almeno fino al 18° anno di età. Finalmente ci siamo arrivati, forse. E se ci arriviamo a questo e ad altri obiettivi, potremo certamente davvero ringraziare la cultura sportiva di Michel Platini. Sì, penso proprio di sì. Pavini, ci dica un errore che ha commesso, a Como o a Bergamo non importa, lei è, un giorno avrà detto questo è negato, e invece poi questo è diventato chi? Allora, io porto ad esempio, perché è servito anche a me come crescita, un ragazzo che ho avuto a Como, sì, no? Che giocava stopper, e onestamente non gli vedevo delle qualità importanti perché potesse fare il professionista di un certo livello. Le posso dire tranquillamente il nome perché con lui ne ho già parlato, no? Era Maccoppi, se sì, lo ricorda Maccoppi. Come no. Lo stopper, certo, fortissimo di testa, una qualità importante l'aveva, fortissimo di testa, magari così coi piedi. Sì. No? Non avrei pensato allora che avrebbe potuto fare una carriera importantissima, invece ha giocato 8-10 campionati in Serie A e 4-5-6 in B, e quindi ha fatto una buonissima carriera, quindi vedi che si sbaglia certo, nel giudizio, nelle scelte fatte magari quando erano ragazzini, magari prendi un bambino, un ragazzo che ti lascia una certa impressione e poi ti accorgi nella crescita che il ragazzo gli mancano tutte le altre qualità, non basta essere bravi a palleggiare o a toccare la palla, bisogna riempire e completare quelle che sono le qualità generali, cioè la forza, la crescita, l'intelligenza, la capacità di stare in campo e tutte quelle qualità che completano poi la crescita del calciatore. Di cui va più fiero, cioè quello che insomma, a prima vista insomma, sarebbe, non so come dire, la lasciata perplesso, che e invece poi ha capito, oppure esatto, ha capito al volo, che dice questo diventa... No, beh, per qualcuno naturalmente si vedeva, per esempio lei vedeva giocare Morfeo da ragazzino a 13-14 anni e capiva che c'era qualcosa di particolare, magari... era un attimino in ritardo e lo è sempre stato sotto l'aspetto fisico-atletico, però calcisticamente è stato un signor giocatore, ma così come gli stessi Pazzini, Montolivo, Motta di cui parlavamo inizialmente, si capiva che avevano qualcosa che li poteva portare ad ottimi livelli, e così sono arrivati, insomma. Io so che lei alle 3, me l'ha detto ieri quando abbiamo preso appuntamento, alle 3 ha una partita, è una, sì, partita di ragazzi, di giovani? Sì, di giovani, di ragazzini allievi del 93, sì. Allievi del 93, lei prima di salutarci, prima che ci salutiamo, ci dice un nome di uno che adesso seguirà con particolare attenzione. Un nome, se vuole, di battesimo, per non violare la legge sulla privacy. No, beh, è chiaro che potrei fargliene anche 2 o 3. Ma preferirei di no, Garanzini, mi scusi, perché non è giusto magari nel rispetto di tutti gli altri 8 o 9 giocatori. Ecco, è così che si fa. La ringrazio davvero, Favini. Grazie a lei, Garanzini. A presto. Tante buone cose, arrivederci. Buon pomeriggio e grazie anche per i consensi che ha suscitato, non solo per sé, mi rivolgo a Favini ancora, ma anche all'appuntamento di oggi. 30 secondi circa all'intervallo dei mercati, è più lungo. Giuseppe scrive, seleziono tra tantissimi messaggi, al Petrarca Padova da sempre se non c'è il profitto a scuola si esce dalla squadra, e senza sindacare, ma quello è rugby, non è calcio, scrive Giuseppe. Visto che ci siamo fatti la bocca dolce con un galantuomo e un professore come Favini, guastiamocela subito per tornare alla realtà. Si parla di Franco Carraro come commissario di Lega possibile. Mattarresi ormai è praticamente out e non è detto che questa sia una cattiva notizia, ma tra i successori possibili a Mattarrese c'è, visto che sarà difficile arrivare ad un accordo sul nome di un presidente, ci sono al momento due candidature forti come commissari. La prima è quella di Pancalli, la seconda sarebbe quella del milionesimo ritorno in corsa, niente meno che di Franco Carraro. Scrive Paolo da Bergamo: se l'Atalanta, quando Beppe Signori, niente meno, fece il provino con me, ci fosse stato il signor Favini, non sarebbe stato scartato. Lo immagino anch'io. E invece arriva una mail curiosa, firmata Alessandro Rocco, che dice: mi chiamo Alessandro e scrivo da Modena, ho acceso ora la radio, ma lei ha il telefono con Favini? Beh sì, se è lui, continua questo interlocutore, gli dica che è presente anche in un gioco manageriale di calcio che si chiama Football Manager. Lui è il miglior osservatore che c'è in quel gioco, d'accordo, è solo un gioco, ma con i giovani talenti non sbaglia mai. Io preferirei non dirla questa cosa a Favini, perché secondo me non la sa e credo che stia meglio così. Sentirei un paio di contributi vocali prima di dare la linea agli amici già collegati da Udine, da Matera, da Milano e da Bologna, vedo sul display, e sentirei Lippi sono cose lette sui giornali, ma è meglio sentire dalla viva voce. Lippi su Cassano. Ascoltate, vi posso dare un consiglio? Continuate a esprimere le vostre opinioni, i vostri concetti, i vostri principi. L'avete fatto serenamente, tranquillamente, senza intervistare me, continuate a farlo. Non c'è bisogno che vi dia io delle cose. Io parlo di quelli che sono qua, parlo dei presenti, non parlo del... È un qualcosa che è già successo abbondantemente anche nel passato, ricordate? Non ho mai parlato, io non devo dare delle spiegazioni. Ho delle convinzioni, le porto avanti, poi voi non mi pare che abbiate in questi giorni fatto delle valutazioni sulla base di quello che avete chiesto a me. L'avete fatto perché sono le vostre convinzioni e io le rispetto e continuate a farlo. Io parlo di quello che mi interessa a me. Questa è la prima parte, poi ce n'è una seconda che riguarda il fatto che la partita si giochi a Bari e quindi, insomma, che Lippi abbia mostrato il coraggio che in questi casi mostrava Bearzot, che se c'era una cosa che proprio non praticava era la cosiddetta geopolitica, e cioè il farsi influenzare sulle scelte rispetto alla sede in cui si sarebbe giocata la partita, no? Altri commissari tecnici più rufiani sono stati sempre molto più attenti invece a questo genere di parametro. Sentiamo Lippi a proposito di Bari. Non credo che noi dobbiamo preoccuparci. A Bari il pubblico di Bari farà quello che ritiene opportuno fare. Io credo che tiferà per la nazionale, poi dopo se tiferà contro la nazionale per altri motivi non lo so, ma non credo, ma non ne sono queste le cose delle quali ci dobbiamo preoccupare. Non dobbiamo preoccuparci di... Altrimenti io non posso, quando insieme alla federazione scegliamo le sedi, l'opportunità di qualche sede piuttosto che un'altra, dobbiamo stare attenti a quelle. O convocare magari un giocatore perché andiamo lì. No, mi sembrerebbe di uno squallido. Bari è una piazza importante, è uno stadio importante, c'ha una squadra che si sta comportando benissimo. Condivido al 100% il pensiero di Lippi in questo caso. Molto divertente questo messaggio firmato da Marina, una milanese, che scrive: Carraro e Mattarrese, ma che colla usano per riuscire a rimanere comunque attaccati alle poltrone? Ma non esiste un solvente adeguato? Penso di no, Marina. Oppure esiste un solvente per staccarli ogni tanto, ma quelli tornano, prima o poi tornano. Claudio da Udine, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. L'intervento era legato al fatto di un'amarezza personale come tifoso di calcio, di sport in genere. Si parla di tutto a sproposito, in maniera squallida, tranne che di calcio, di sport, dei giovani, di come far crescere i giovani. Fortunatamente con interventi come quel signore di oggi lì ti riappacificano un po'. Io dico, questo calcio troverà il modo di uscire da questi calciatori miliardari, procuratori che campano sulla pelle di questi giocatori? Si riuscirà a far crollare prima o dopo questo meccanismo, saremo costretti a decidere che il calcio dovremmo evitare di vederlo, perché anch'io le garantisco, sono tifosissimo dell'Inter, però è uno squallore generale, al di là di quelli nostri che ne abbiamo di squalli nella nostra squadra, però dico, sono veramente amareggiato, perché io mi ricordo da ragazzo la gioia di ascoltare le partite alla radio, di andare a vedere qualche partita in Serie C a Udine, che non si giocava ancora in Serie A. Non credo che ci sia ancora questa gioia nei giovani, cosa dice? Non lo so, è difficile dirlo. Io sono più sintonizzato con lei che non con gli entusiasti, magari senza essere del tutto catastrofisti e provando a cercare dei segnali positivi. Il fatto che una persona come Mino Favini, ha sentito, a 73 anni, abbia ancora questo entusiasmo, questa passione, no? Sembrava uno slogan di Radio 24, ma senza bisogno dello speaker, però, che arrotonda e ammorbidisce la voce, no? Perché la passione trasudava davvero da quello che diceva e ci raccontava. Io credo che questi siano segnali, sono segnali di resistenza umana, il lavoro che sta facendo Platini, e di cui parleremo domani sotto un altro punto di vista, perché ha annunciato proprio oggi a Copenaghen in un congresso alle 53 federazioni presenti a Copenaghen, le 53 federazioni fanno parte dell'UEFA, un prossimo inizio di un controllo vero dei conti dei club europei da parte dell'UEFA per un'ammissibilità o meno alle coppe. Insomma, c'è chi ci prova, poi certo ci sono magari anche i grandi ritorni, no? Materrese era già tornato a suo tempo, adesso abbiamo sentito che magari potrebbe essercene un altro. Il calcio è in bilico tra un futuro che cerca di darsi e un passato che ogni volta rischia di tornare più devastante di prima. Felice da Matera, buongiorno. Buongiorno Granfini, è la prima volta che la chiamo da Matera. Dunque, volevo fare un intervento a proposito dell'esclusione di Cassano da parte dell'Internazionale, riprendendo un discorso iniziato ieri. Dunque, lei ieri faceva un cenno a Berzot, quando all'epoca della nazionale del campione del mondo non si faceva condizionare da altri. Io ricordo che la convocazione di Rossi fu conseguenza di una cosa popolare. Non solo, lei faceva riferimento anche alla moralità di quegli anni. Di Rossi ha detto, mi scusi? Sì, cioè, la convocazione di Rossi nel campionato del mondo dell'82, se lei rammenta, come sono sicuro che rammenta, rammento il contrario esatto, Felice, cioè, Rossi però giocò in nazionale. Quando Berzot convocò Rossi anziché Pruzzo si sollevò il paese, cioè, era una roba lo aspettavano i forconi sotto casa, ma cosa ci sta raccontando? No, io sto sottolineando l'esatto contrario, forse non sono stato chiaro. No, non tanto. La convocazione di Rossi sostanzialmente, a parte la cosa popolare, comunque si parlava di moralità per quanto riguarda le convocazioni. Sulla moralità di Rossi mi permetta di evidenziare tutti i miei dubbi, perché veniva fuori da una squalifica, tra l'altro ridotta da parte dei vertici della federazione. Ricordo male anche in questo caso, Paolo Rossi fu squalificato per 2 anni, scontò i 2 anni fino all'ultimo giorno, giocò 3 partite con la Juventus prima di essere convocato per la Spagna, e fu convocato perché nel frattempo in inverno si era infortunato gravemente Bettega. Ma comunque però non possiamo andare avanti a riscrivere la storia e poi cavarcela con ma comunque, Felice, abbia pazienza. Un parallelo con l'atteggiamento che ha Lippi nei confronti di Cassano. Ecco, arriviamo all'attualità. Ecco, questo è il problema. Cioè, Cassano, a parte i suoi piccoli problemi personali derivanti da sue situazioni pregresse che non sto qui a citare, ad ogni modo denota un miglioramento sotto l'aspetto sia psicologico che tecnico e professionistico talmente evidente che solo una persona arrogante e presuntuosa come Lippi non può prendere atto. Cioè, è evidente il miglioramento del ragazzo sotto il profilo tecnico. Tecnico lo escludo, Felice. 10 anni fa Cassano era esattamente questo. Dal punto di vista tecnico credo che nessuno gli abbia insegnato nulla in questi anni. Gli avranno insegnato dal punto di vista tattico, hanno cercato di insegnargli dal punto di vista comportamentale, hanno puntualmente fallito per molti anni, alla Roma, Real Madrid e alla Sampdoria i primi tempi, poi adesso la situazione oggettivamente è migliorata. Ma che che un commissario tecnico non abbia la possibilità di fare delle scelte in un senso o nell'altro, insomma, è proprio soltanto non è soltanto da questo paese, perché i CT sono messi in croce ovunque, ma mi sembra che siamo nella norma, cioè a ogni convocazione ce n'è uno che va, o uno che viene, ce n'è uno che balla, ce n'è uno, metterla con le maiuscole, ma soprattutto riscrivere la storia sbagliata come ha fatto lei, mi sembra un'operazione abbastanza azzardata, ecco. Da Milano, Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signor Grandissini. Dica. Senta, mi dispiace che non c'ho più il signor Savini in linea. Favini. Favini con la F. Ah, Firenze. Favini, mi scusi. Sì, certo. Perché io ho un figlio di 7 anni che frequenta una società, mi scusi un po' l'emozione, una società di calcio minore di Milano, locale di Milano. E spesso in questi pochi mesi che ha giocato viene escluso, a discapito invece della riunione che abbiamo fatto a inizio campionato, dove si diceva tutti i bambini sono ancora piccoli, sono uguali, il campione si farà più avanti. E volevo sapere dal signor Favini, appunto, mi sarebbe piaciuto sapere come gestiscono loro i bambini da piccoli praticamente, perché come faccio a dire a mio figlio che purtroppo non è portato per il calcio, però lui è imbarazzante. Io credo che Favini non le avrebbe risposto, nel senso che le persone serie rispondono su un caso solo quando quel caso lo conoscono da vicino, e quindi credo che non le avrebbe detto nulla di preciso. Chieda spiegazioni lei in questo settore e cerchi nel frattempo di evitare il più possibile un trauma a questo bimbo, insomma, direi. Allora, il ripasso di storie innanzitutto affidato anche oggi a Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 marzo 1995. A Salerno l'Italia sfida l'Estonia in una gara valida per le qualificazioni agli europei del 96. Il CT Arrigo Sacchi decide di dare fiducia a un attaccante emergente. È il ventenne Alex Del Piero, che sta incantando nella Juve di Lippi proiettata verso lo scudetto. Del Piero viene schierato in un tridente composto anche da Zola, che segna una doppietta, e da Ravanelli, altro esordiente, autore del definitivo 4-1. Oltre a Del Piero e Ravanelli, Sacchi fa debuttare anche il portiere Peruzzi, altro protagonista della grande stagione juventina. Torniamo all'attualità, e l'attualità ci propone questa prima intervista di Camolese, prima, è la terza, perché credo sia la terza volta che viene a Torino almeno, ma insomma, comunque questo frammento tratto dalla conferenza stampa in corso, grazie a Sky, quando finalmente Camolese è riuscito non a strappare, ma insomma a farsi smistare verso l'ala il microfono dal suo presidente. Sentiamo Camolese. Dal punto di vista tecnico, molti di voi l'opinione su questa squadra mia già la conoscono, perché io l'ho espressa in più occasioni. Io ho sempre pensato che era una squadra che potesse fare un campionato diciamo tranquillo, per quello che ha dimostrato nelle prime partite, per come l'avevo vista io. Poi il perché e il per come, queste sono cose che probabilmente solo chi era all'interno saprà spiegarvi. Io credo che questa squadra abbia le possibilità per arrivare al suo obiettivo. Non c'è molto tempo, e quindi bisognerà essere bravi e veloci tutti quanti. Chiederò a loro la massima disponibilità, la disponibilità al sacrificio, la disponibilità ad accettare anche quelle che sono le mie decisioni, che sicuramente, come sempre succede agli allenatori, non si riesce mai ad accontentare tutti. Però voi sapete anche, perché mi conoscete, che al centro della mia idea del calcio c'è la squadra, ci sono i giocatori, le attenzioni verso tutti, e quindi io ho bisogno di tutti, e con tutto il gruppo che io voglio arrivare alla salvezza. Non è una missione impossibile con la I maiuscola quella di Camolese, ma certo sarà una missione molto ma molto ardua. C'è in linea Pietro, ha chiamato da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Pietro. È un grande piacere poter parlare con lei innanzitutto, no? Grazie. Tra l'altro mi dispiace dire che proprio oggi io sono ovviamente quasi sempre d'accordo con quello che dice, soprattutto con la visione così bella che ha del calcio, però oggi sono in disaccordo sulla vicenda Cassano, che secondo me grida vendetta, no? Perché lei ha ragione nel dire che un allenatore sceglie i giocatori che vuole, qua parliamo di un allenatore nazionale e tra l'altro parliamo dell'esclusione di veramente di un grande campione, non è un giocatore qualsiasi, non è che nella rosa della nazionale ci siano tutti questi grandi campioni, Cassano lo è. E quindi cioè, poi giocare a Bari senza Cassano è veramente un grave danno per il calcio. Le dico questo e concludo, e poi ovviamente la sento per radio. Io ho rinunciato a vedere la nazionale, non vedevo l'ora di comprare il biglietto qui da Barletta a Bari, è ovviamente semplice, ma ho rinunciato proprio perché mi ha deluso questa cosa. E ahimè, il signor Lippi, anche se ovviamente lo dico in termini virgolettati perché non mi permetterei mai di dare un giudizio su una persona, ma ha dimostrato una certa arroganza anche nelle risposte. Peccato per per la partita. Ecco. Pietro, nei toni insomma, credo che l'arroganza, una certa arroganza di Lippi ci sia sempre stata. In questa vicenda io personalmente lo condivido, lo ammiro, anche perché, ripeto, sarebbe stato troppo facile. L'equazione, no? Si gioca a Bari? Allora, convocato a Cassano, poi si gioca a Torino, mamma mia che non manchi Del Piero, eccetera eccetera. Io, secondo me, così non si fa una nazionale si fa in base alle proprie convinzioni, in base a determinate prove. Io penso che lui di Cassano abbia ben poco da scoprire da un punto di vista tecnico, perché lo si vede e il suo valore attuale è indiscutibile. Evidentemente sta facendo altre valutazioni. Finché il commissario tecnico è lui, credo che abbia il diritto lui di fare, anzi dovere di fare lui queste valutazioni. Il fatto che non ceda alla geopolitica potrà dispiacere ai baresi, e questo lo capisco, ma in una città che torna finalmente a riemergere dopo tanti anni e che sta riassaporando una, non dico ancora certa, ma insomma una probabilissima Serie A, io credo che fischiare la nazionale, come già si sente nei progetti, solo perché non ci sarà Cassano, sarebbe una retrocessione preventiva, no? Da un punto di vista di cultura sportiva, cosa che mi sorprenderebbe poi fino a un certo punto per Bari, e non solo per Bari, intendiamoci. Francesco, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Mi riallaccio all'ultima telefonata che ho appena finito di sentire riguardante Cassano. E io, oltre a trovarmi d'accordissimo su quello che ha detto l'ascoltatore precedente riguardo alle doti di questo, secondo me, grandissimo giocatore, direi dopo Totti e Del Piero, è sicuramente il più forte in assoluto, anche se lei non è molto d'accordo. Proprio poco. Sì. Pronto? Sì, prego. Ho sentito anche la trasmissione di ieri dove lei ha giudicato Cassano un buon giocatore e nulla più. Ma a parte Cassano, le vorrei ricordare l'arroganza veramente di questo commissario tecnico. Le voglio ricordare solo un episodio. Veloce, Francesco, veloce. Le voglio solo ricordare un episodio. Mm. E quando allenava l'Inter, la fine che fece fare nell'anno e mezzo che Baggio andò in panchina a scapito di un Primavera che non si sapeva neanche chi fosse. Lo ricorda questo particolare? Francesco, lo ricordo, e ricordo anche che non fu soltanto con Lippi che Baggio ebbe dei problemi. Baggio ha avuto problemi un po' con tutti gli allenatori che ha avuto, tolto Mazzone quando era ormai nella fase discendente della carriera, quindi io credo che se Lippi è stato arrogante con Baggio, ce ne sono stati altri, e non posso pensare che tutti fossero arroganti solo per Baggio. Ma sono discorsi talmente vecchi, talmente triti e talmente ritriti che sinceramente mi pento un po' di aver congedato troppo presto Mino Favini oggi. Michele da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Infatti io mi riferivo proprio a Favini, perché ascoltarlo per mezz'ora alla radio è valsa da solo la pena di tenere la radio accesa. Io glielo dico Io ho 39 anni, quindi non ho trascorsi così lunghi come quelli che raccontava Favini, ma ascoltarlo era veramente una delizia per chi il calcio lo ama dal punto di vista proprio dello sport e non della chiacchiera, no? Ringrazio. Al tempo stesso però, Garanzini, faccio attenzione, perché lei, invitando le persone come Osvaldo Bagnoli, Gigi Cagni, Favini in trasmissione, si condanna al ruolo di giornalista in via d'estinzione, perché sì, quindi non dà più ascolto a nessuno. Michele, quindi... ma lo sono da tempo, se è per quello, non... ed è un ruolo che mi sta a pennello e che cavalco con molta convinzione. Quindi uscirà fuori di moda, mi permette questa battuta. No, io mi arrangiavo ad un'unica cosa che ha detto Favini, che io tenevo a ribadire, cioè il rapporto dei genitori verso i figli che praticano lo sport. Sì. Io ho dei trascorsi da giocatore di baseball di scarsissimo livello e mi ricordo che quando andavo agli allenamenti, quando andavo alla partita, i miei genitori mi dicevano: guarda, adesso hai giocato, no? Però a casa domani devi andare a scuola, fai i compiti, punto. Cioè il gioco era il gioco, no? Era lo sport, evidentemente anche praticato a non grandissimi livelli da parte mia. E quello era lo spirito, certo. Cioè tu fai lo sport e poi però studi. E lei ha 39 anni, quindi lei non è certamente una persona avanti con gli anni, né lo erano i suoi genitori al momento, non stiamo parlando di chissà che epoca. Lo so, ma i costumi evolvono in fretta, no? Soprattutto in questo paese. Grazie del suo intervento, grazie a tutti gli intervenuti di oggi, a cominciare ovviamente dal splendido Mino Favini, grazie a Fabio Cantadoni in regia, Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.